Rassegna Stampa Europa. Buongiorno da Cristina Carpinelli, benvenuti a questo nuovo appuntamento con la rassegna stampa europea, una settimana ricca di avvenimenti e fatti, quella che andiamo a raccontarvi anche attraverso le pagine dei giornali. Le misure di Draghi, della BCE e il vertice del G7 sono di fatto i temi che sono stati al centro di questa settimana. Allora abbiamo iniziato guardando e sfogliando il Financial Times, che scrive: la BCE si spinge dove nessun'altra grande banca centrale si è finora spinta, i tassi negativi sui depositi sono la novità del pacchetto deciso da Francoforte, ma la loro efficacia è discutibile. L'editoriale è a firma di George Magnus, secondo il quale le decisioni della BCE potrebbero non essere abbastanza forti per spingere le banche a rilasciare credito, a indebolire abbastanza l'euro per fermare la deflazione. Prima c'era la politica dei tassi zero che gli Stati Uniti hanno usato per stimolare la crescita economica per gli ultimi 5 anni e mezzo, ora bisogna prepararsi per l'NIRP, cioè la politica dei tassi di interesse negativi decisa dalla BCE. Questo invece è quanto mette in evidenza il New York Times, precisando tra l'altro che la Danimarca è stato l'ultimo paese nel 2012 ad adottare tassi negativi sui depositi e senza grandi effetti. Sullo stesso tenore anche altri quotidiani europei, da Il País e Il Mundo, in giornali quotidiani spagnoli, ma anche sulla stessa linea anche molti quotidiani tedeschi. Abbandoniamo questo tema e invece ci dedichiamo all'altro argomento che ha tenuto di fatto per quasi tutta la settimana, il vertice del G7, vertice delle principali potenze economiche mondiali. Il tema era la situazione in Ucraina. I capi di Stato e di governo di fatto alla fine si sono schierati dalla parte dell'Ucraina nella crisi con la Russia. Molto rilievo alle notizie economiche europee viene dato anche dai giornali spagnoli, dei quali però prendiamo un articolo di El Mundo a firma di Juan Manuel Belver dal titolo Siria, guerra civile, la minaccia terroristica, veterans contro l'Occidente. I governi sono pronti a rilevare i veterani di ritorno da un conflitto. Vi leggo alcuni passaggi di questo articolo. Il conflitto in Siria è diventato il fulcro principale della volontaria jihad globale, come l'Afghanistan era stato negli anni 80. Tra gli 11.000 jihadisti stranieri che combattono in Siria, oggi milizie laterali che cercano di rovesciare il regime di Bashar Assad, circa 3.000 provengono dall'Occidente. Il 55% di loro sono affiliati con lo Stato islamista, gruppo di Iraq e Siria. Secondo il Centro Internazionale per lo Studio della Radicalizzazione, il suo acronimo in inglese è ICSR, allegato al King College di Londra. Con queste informazioni sul tavolo, i governi di Europa e Stati Uniti sono sempre più preoccupati per la minaccia che potrebbe significare per la sicurezza una volta che questi militanti radicalizzati in Siria tornino a casa. Il primo effetto lo abbiamo visto con la sparatoria al Museo Ebraico di Bruxelles, presumibilmente perpetrato da un francese di origine marocchina che era stato in Siria fino allo scorso anno. Questo quanto ci racconta il Mundo, la firma di questo articolo è Juan Manuel Belver. Per quanto riguarda invece i giornali francesi, nel corso di questa settimana si sono occupati soprattutto della faccia storica dell'Europa, con ampie pagine dedicate allo sbarco in Normandia, come scrive Le Figaro in prima pagina. È il 70° anniversario dallo sbarco, un evento che ha richiamato 19 capi di Stato, tra cui la regina Elisabetta, Barack Obama, Vladimir Putin, 1.800 veterani, la maggior parte sono di età superiore a 90 anni. La loro scomparsa negli anni prossimi, scrive Le Figaro, ci porterà a un passaggio di consegne dalla memoria alla memoria, come afferma il coordinatore delle cerimonie, che riporta ancora Le Figaro, dice: i veterani stanno scivolando via a poco, se si vuole che il 6 giugno continui a vivere, i giovani devono prendere il sopravvento. C'è anche una notizia che proviene dall'Ungheria. L'apertura dei quotidiani ungheresi è soprattutto collegata ai 15 minuti di oscuramento, che è la forma di protesta scelta dai media privati ungheresi per manifestare la propria opposizione alla nuova supertassa sulla pubblicità che il governo intende imporre a televisioni, radio e siti internet non statali. La nuova legge prevede di tassare fino al 40% i proventi degli spot e secondo gli interessati porterà al fallimento numerose testate. Il progetto è presentato da un deputato del partito Fidesz del premier populista Viktor Orban e dovrà essere discusso in Parlamento a settembre. Per quanto riguarda altre notizie che abbiamo trovato all'interno dei quotidiani europei, Amnesty International ha chiesto l'apertura di un'inchiesta dopo le rivelazioni di pochi giorni fa sulla sepoltura di una fossa comune di 800 bambini, figli di donne nubili ospitate da suore della Chiesa Cattolica Irlandese più di 50 anni fa. E un altro tema che vi segnaliamo riguarda l'Albania, perché anche di questo si è parlato all'interno dei quotidiani europei. La Commissione europea di fatto promuove ancora Tirana. L'Albania merita lo status di paese candidato all'adesione all'Unione Europea. Questa è l'ultima pagella destinata ai 28 stati membri in vista di una decisione del Consiglio europeo di fine giugno. E per quanto riguarda invece le altre notizie che arrivano da altri paesi, Amnesty International ha chiesto l'apertura di un'inchiesta dopo le rivelazioni di pochi giorni fa sulla sepoltura in una fossa comune di circa 800 bambini, figli di donne nubili, ospitate da suore della Chiesa Cattolica Irlandese più di 50 anni fa. Questa scioccante vicenda, leggiamo, richiede immediata attenzione e risposte da parte del governo irlandese. Questo quanto ha dichiarato John Dalhousie, direttore del programma Europa e Asia Centrale di Amnesty. Bisogna fare un'inchiesta esaustiva sulle condizioni in cui questi bambini sono morti e scoprire se maltrattamenti, negligenze o altre violazioni dei diritti umani hanno avuto un ruolo nei decessi. E vogliamo, continua Amnesty, anche sapere perché questi bambini non hanno avuto una sepoltura dignitosa e adeguata. Altro tema che vi segnaliamo per questa rassegna stampa europea è relativo all'Albania. La Commissione europea infatti promuove ancora Tirana. L'Albania merita lo status di paese candidato all'adesione all'Unione Europea. Questa l'ultima pagella destinata ai 28 stati membri in vista di una decisione del Consiglio dell'Unione Europea di fine giugno. La Commissione europea conferma la sua raccomandazione che il Consiglio conceda all'Albania lo status di candidato, si legge nella relazione adottata a Bruxelles, mirata in particolare sui settori della giustizia e della lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata. È su questi fronti che Tirana e i paesi che supportano appunto la sua candidatura all'adesione, come tra l'altro l'Italia, nelle prossime settimane dovranno riuscire a convincere il gruppo rimasto di scettici fra i 28 paesi europei. Chi sono gli scettici? Sono la Francia, la Germania, la Gran Bretagna, la Danimarca e l'Olanda. Questi dunque i temi che abbiamo trovato anche guardando i quotidiani albanesi. Parliamo anche di agricoltura, parliamo anche di miele, perché una notizia appunto di settore, ma che sicuramente interessa quasi tutti noi, riguarda il miele, perché finisce l'anarchia sull'import nell'Unione Europea di miele dai paesi terzi. Il Consiglio Europeo ha infatti definitivamente approvato e pubblicato la nuova direttiva europea che prevede l'indicazione sull'etichetta del paese o dei paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto. Quanto all'eventuale presenza di polline OGM nel miele, l'informazione dovrà essere riportata sull'etichetta del prodotto solo se la presenza è superiore allo 0,9%, come per tutti gli altri alimenti. L'impatto di questa nuova direttiva di fatto tutelerà i consumatori, che potranno scegliere il miele che intendono acquistare essendo informati sull'origine del prodotto, e anche i produttori, che saranno maggiormente protetti dalle importazioni di miele a basso prezzo dai paesi terzi. Questa era l'ultima notizia per questa rassegna stampa europea. Buona giornata da Cristina Carpinelli. Rassegna stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.